Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sulle 87.9. Queste tracce di cinema. Oggi è giovedì 6 gennaio, sono le 15.02. Gennaio addirittura. Oh! Perché in gennaio? Perché ho detto 6 gennaio? Non fa neanche freddo. No, è una bellissima giornata primaverile. Ma nel mio cuore il mio cuore è freddo come se fosse gennaio, Fede. Ecco perché hai quelle piume alle orecchie. Sì, no, questo perché mi sento indiana metropolitana in gennaio. Ok. Oggi mi sento così. Oggi grande puntata, un super ospite. Stavo chiacchierando con lui adesso. Vedevo che ridevate di là. Se la siamo chiacchierata alla grande nel nostro salottino della radio e stavo proprio constatando con lui che dovremmo aver scritto sul titolo della puntata, non dico il nome, parte 1, perché ci dovrebbe essere anche una parte 2, perché troppa roba qua c'è da mettere, a parte oggi che abbiamo tipo non so 15 brani da suonare. Non li suoneremo tutti, ma ci proveremo, ma sarà impossibile perché le chiacchiere da fare sono tantissime. Poi si sa, io sono una chiacchierona, quindi non sarà facile suonare tutto, e il nostro ospite ha tanto da raccontarci, molto di più di quello che posso dire io, che è privo di qualunque tipo di fondamento di interesse per la maggior parte delle volte. Beh, insomma, comunque introduco così il nostro ospite: compositore, polistrumentista, direttore d'orchestra, produttore musicale, ingegnere del suono, poeta, scrittore, filosofo italiano. Ha pubblicato raccolte di poesie e saggi di filosofia e di arte. Nell'aprile del 2013 è uscito un suo romanzo, Il misterioso romanzo. A 16 anni ha debuttato come direttore d'orchestra. Questo già vi fa capire, insomma, la mole del personaggio che abbiamo, del compositore che abbiamo oggi, che ospiteremo oggi. Insomma, viene definito dai maggiori quotidiani italiani il baby direttore d'Italia. L'attività musicale lo ha portato a vivere per lunghi periodi nei Paesi Bassi, in Francia, in Germania, in Africa. Nel 2012, con lo pseudonimo di L6, ha codificato un nuovo genere musicale nell'ambito dell'elettronica underground denominato Mystic Electro. Ha suonato come DJ in tutti i locali più importanti del mondo, da Berlino al Panorama Bar a New York, e chi ne ha più ne metta. Adesso ha usa un nuovo pseudonimo, che è quello di Alway, e il suo Tabula Rasa nel 2013 è stato in tour in giro per l'Europa. Ha usato tantissimi linguaggi musicali che sono andati dall'elettronica al jazz, la computer music, e ha sperimentato tantissimo. Ma a noi tutto questo non ci interessa, o forse sì, ci interessa anche, sì, a me interessa molto, ma insomma è qua perché queste tracce di cinema, parliamo di colonne sonore, e lui è autore di tantissime colonne sonore del cinema italiano. Parliamo di Luis Siciliano, anche se a lui non piace chiamarsi così, perché tante sono le schegge che fanno parte, così lui mi ha detto, di questa sua personalità, e che cerca di mettere insieme, e ogni volta danno vita a una qualcosa di diverso dal punto di vista musicale, dal punto di vista anche interiore. Ed ha una gran bella giacca rossa scozzese. Sì, bellissima. E le colonne sonore che ha curato sono tantissime. Ha lavorato con tantissimi registi: Stefano Matucci, Alessandro Dalatri, Fabrizio Cattani, Oldoini, Zaccaro, Alessandro Greco, Aureliano Amadei, Gabriele Salvatore, tantissimi. Non li nomino tutti perché è una lista veramente molto lunga e ci mettiamo soltanto altri 20 minuti per elencarli tutti, e non voglio, perché voglio suonare le sue musiche. Iniziamo subito con una e poi lo facciamo chiacchierare. Thank you. la sfumiamo un po'. Questa era From Heaven e ce ne parla Luis. Che dici? Ciao Ottavia, ciao Federico, ciao a tutti i nostri amici che ci ascoltano, sono contentissimo. E purtroppo avete visto, da quando hanno chiuso i manicomi, vi ritrovate insomma anche in radio soggetti a piede libero. Che... Comunque un caro saluto a tutti, e, insomma è bellissimo ritrovarsi da spettatore, perché io vi ascolto in macchina quando viaggio, siete con me, anche perché è una delle poche radio station che hanno musica elettronica, perché insomma l'elettronica sapete che è un altro mio pallino così, e quindi vi seguo sempre, sono felicissimo e saluto tutti. Ne parleremo di questa tua passione, perché prima fuori onda mi hai raccontato un aneddoto che non ci rinuncio a raccontare, che tu lo racconti anche agli ascoltatori, perché è molto bello. Poi Ottavia è una patita di elettronica, per cui vedi, infatti prima con lui stavamo chiacchierando e dicevo ma devi anche incontrarti con il nostro elettrodo, perché sicuramente vi conoscerete di fama l'uno con l'altro. Parlaci un po' di scusami No, cominciamo con questa From Heaven. Ci dicevi dei bambini. Sì, c'è un coro di bambini ed è praticamente un brano che ho scritto perché avevo bisogno di introdurre diciamo questo film di Sergio Assisi che ho fatto ultimamente, A Napoli non piove mai, e ho scritto questo brano dove avevo bisogno di una componente che fosse proprio così, che arrivasse, perché secondo me l'energia più grande che ci circonda, qualcuno pensa io sono vesuviano, nato sotto al Vesuvio, qualcuno pensa no dalle mie parti che sia il Vesuvio, qualcun altro invece può pensare che ne so che sia un grande jet dell'aviazione americana. In realtà l'energia che ci danno i bambini, questi esseri meravigliosi, no? È veramente qualcosa di incredibile. Per me rimangono una forte ispirazione, essendo anche papà, e quindi è una cosa che mi dà un'energia pazzesca, e io proprio sono fiduciosissimo. Uso questo eufemismo perché oggi, nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo, anche molto grave, specialmente per le donne, per i bambini, non dobbiamo dimenticare mai quello che sta succedendo qua vicino casa nostra, al di là del mare, ma proprio per questo dobbiamo dare a questi bambini, no, la possibilità e la capacità di essere consapevoli e di migliorare questo pianeta dove comunque noi siamo di passaggio e siamo ospiti, e quindi io ho molta fiducia in loro. Bellissima questo pezzo di Luis, ma come dicevo prima non voglio togliere troppo spazio alla musica, perché le tracce che abbiamo scelto sono tante, per ognuna Luis ha delle cose da raccontarci, e non mentre ci racconterà sicuramente arriveremo poi a parlare anche di altro, quindi continuerei, Fede? Okay, che dici Luis? Continuiamo? Sì, continuiamo. finds my G-spot. Does he find the spot? Yep, he finds it a lot. He finds it a lot, yes, just like he ought. There's absolutely nothing that he needs to be taught. He's got a large intellect, a large one he's got. Sounds like things tend to get pretty hot. Over a thousand, no, a million watts. Over a million watts, oh my god. Hold on a minute, that's such rot. If you don't believe me, I don't care a jot. Want you to go away. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. In the sky, there is no doubt to him I'm clinging. He makes me want to be a better person, go beyond myself to transcend. He's as sweet as can be, and as cute as a flea. He is my name, and I miss him. I'm walking on air, in the sky. Ironic, such a coincidence. This love that is true is all thanks to you. And most of all, he's your best friend. What a swinging climax! Luis, di questa ci dici tutto tu. Sì, in questo allora. Giovedì 6 gennaio. Allora, dovete sapere che quando mi ha contattato Enrico Olduini per fare la colonna sonora dei Mostri Oggi, immaginate, sì, un appassionato di cinema quando sente i Mostri Oggi, e insomma stiamo parlando di Trovajoli, cioè un grande compositore di colonne sonore italiano e non solo, insomma un fine jazzista e tutto. E allora, poiché dovete sapere che ho vissuto 8 anni a New York, e per campare, perché ero giovanissimo, mi alternavo facendo 3 cose. Dirigevo una big band, scrivevo pure gli arrangiamenti. Poi lavoravo in uno studio di registrazione dove erano solo ragazzi afroamericani, che quando mi hanno visto la prima volta dice: questo dove sta avvenendo? Poi io un giorno gli ho detto, dico: bello, io vengo da Napoli, forse tu non hai capito, io sono internazionale. E allora da lì poi è nata una grande amicizia, e devo dire che, ecco, come diceva qualcuno prima di me, io sono sempre stato un nero a metà, no? Mi sono sentito, anzi, a proposito di nero a metà, vedi, faccio un po' di collegamenti random. Il bassista del primo pezzo è Gigi De Rienzo, che è il produttore artistico di Nero a Metà, che era il bassista di Pino, okay, che tra l'altro suona spesso con me, siamo molto amici e io lo amo, lo stimo, e come stimo tutti i musicisti che lavorano con me. Ritornando ai Mostri Oggi, io ho voluto riportare, perché secondo me la big band è qualcosa di meraviglioso. Ho chiesto a Melanie Guerin di cantare, che è una cantante di Los Angeles, che da anni in Italia, e avevo proprio questo piacere di... Però vi dirò una cosa da detto ai lavori, proprio da musicista, no? Però spero di comunicarlo bene alle persone che ci ascoltano. Volevo fare un qualcosa che avesse il suono della big band, però che ci fosse anche dentro un po' Django Reinhardt, che è un po' un mio pallino. Mm-hmm. Django era un gitano, era uno zinga, uno che viaggiava moltissimo, un musicista raffinatissimo, e dovete sapere che io sono molto legato ai gitani, alla musica. Ho prodotto anche un documentario che si chiama Rom Uomo, dove insomma è un viaggio musicale dall'est, dai paesi dell'est fino a Saint-Marie de la Mer. Quando ho prodotto questo documentario, per dirvene una, io ero praticamente seduto a terra all'altare di questa chiesa, perché nella chiesa i gagé saremmo noi, sì, non sono non possono entrare, solo la comunità, diciamo, rom. Io avevo due costole rotte, perché anche questo fa parte del personaggio, come diceva Ottavia. Durante la proiezione di Almodovar, del film, dove un film pazzesco, non mi ricordo il titolo adesso, dove si scuoiavano, era un film violentissimo, io ero seduto vicino al Almodovar e ho detto: senti, non mi dire niente, io devo uscire un attimo dal palais, mi sta mancando l'aria, perché purtroppo dovete sapere che io, quando faccio i film, piango col film, rido col film, nonostante che faccio film ormai da tanti anni, sto lì che mi emoziono, poi vedo gli attori e loro mi guardano così, io li saluto come vecchi amici e mi dicono: ma tu chi sei? Dico: ma io ti sto vedendo da due mesi come chi sono. Quindi, cioè, entro in un rapporto simbiotico. Morale della favola: prima di uscire dal palais cado, mi rompo due costole, mi ritrovo a Saint-Marie-de-la-Mer qualche giorno dopo, dopo essere stato ricoverato, e lì all'improvviso mi vedo arrivare questa chitarra che è su tutte le mani dei gitani, eccetera. All'improvviso questa chitarra mi arriva, io mi alzo, non so per quale miracolo, parlando di chiese, parlando di cose, di miracoli, e vado sull'altare insieme ad altri tre gitani e suoniamo e facciamo, e tutti quanti mi dicevano: ah, ma allora tu sei rom? E da allora io ho detto: sì, io sono un gitano del Vesuvio. E quindi volevo riportare in questo film anche questo suono gitano, un po' del gypsy manouche jazz, no? Che è molto europeo, è molto, e quindi c'è sempre, mi piace molto sotterrare nei pezzi anche delle cose un po' subdole, perché mi ricordano molto i dischi dei Pink Floyd, dove c'erano le ghost tracks, questa poi era una tecnica anche medievale dei compositori medievali, tipo Ockeghem, tipo Josquin des Prez, cioè di sotterrare nei brani, sì, lo faceva anche Bach, dei messaggi, delle cose subliminali, delle... E quindi io mi piace moltissimo riempire, infarcire i brani di citazioni, di cose, di rimandi, di lo trovo divertente, un po' anche una questione proprio di lasciare come naufrago, perché mi sento molto naufrago in questa società globalizzata, no? Penso un po' come noi tutti, poi Radio Onda Rossa credo che siamo proprio i naufraghi, mondo consumista, e quindi nulla, il naufrago lascia il suo messaggio nella bottiglia, che poi è musica. Volevo dire qualcosa, ma dopo le parole di Luis non mi ricordo più niente in questo giovedì 6 gennaio, e che gennaio. Vi avevo avvertito che non avevamo un ospite qualunque oggi, e continuiamo. Le sue parole riempiono il cuore e l'etere. E sono fortunata di averlo qua, siamo fortunati, Federico. Sono fortunati i nostri ascoltatori che lo possono ascoltare e che continuano ad ascoltare le musiche di Luis Siciliano per il cinema. Thank you. 5, Luis. 5 ragazzi, mamma mia, un film di Francesco Maria Dominedò con molti attori giovanissimi, giovani che poi dopo hanno fatto strada. È stato, è un film secondo me cult, veramente ne hanno parlato tutti, addirittura mi hanno detto che la colonna di 5 è stata molto apprezzata in Giappone, in giro per il mondo, e c'erano attori come Mircone che poi è diventato preso dalla strada da Francesco, un personaggio meraviglioso che poi ho visto che ha fatto altri film, ed era un periodo stupendo. Dovete sapere che quando sono andato alla Warner Chappell dicendo io vorrei fare 5, Giovanni Marolla all'epoca, che era lui il supervisore, mi ha guardato, dice no ma tu sei matto, questo è un film totalmente indipendente, non è possibile. Dico e dai, perché sulla carta io poi l'avevo visto nascere, avevo visto le facce. E Giovanni mi dice, dopo che avevo fatto dei film dove comunque c'era un budget produttivo, dove comunque erano film importanti con grandi orchestre, grandi cose, ho detto senti, facciamo una cosa, io faccio un noleggio di tutti gli strumenti, entro in studio da Pasquale Minieri, col quale collaboro da sempre. Sapete Pasquale Minieri, fondatore del Canzoniere del Lazio, il grande produttore con Demetrio Stratos, con tutti. Pasquale è la storia della musica in Italia. E ho detto senti Pasquale, l'importante è che mi dai lo studio, lo so che insomma ti prego, mette, abbiamo messo tutti gli strumenti nello studio. Io praticamente avevo un amico, perché era impossibile chiamare dei professionisti con quei budget, e ho suonato tutto io da solo, batteria, basso, chitarre, ho cantato, ho fatto, mi sono messo lì con le immagini e ho detto no, se qua la cosa è così, e allora, e da lì poi devo dire che da lì poi è nata questa concetto di music of becoming, di musica del divenire, dove, che poi ho applicato anche ad altri film dopo, dove praticamente io mi ritrovavo davanti a uno schermo e come un pittore avevo quasi 100 strumenti, che ormai la mia collezione sono quasi 130 strumenti da tutte le parti del mondo, alcuni sono proprio forse uno dei pochi occidentali che li suona, sicuramente il saranghi, che è uno strumento diciamo classico indiano, quello sono l'unico in occidente tra gli occidentali, è normale, e avevo tutti questi colori e ho fatto 5. Quando ho finito 5, per me è stata una gioia incredibile, perché avevo dimostrato anche a me stesso che era possibile lavorare come un pittore, perché io ho sempre il pallino della pittura, sì, e delle arti connesse, ecco. Un risultato importante. Vabbè, ricordiamo che 5 è un film del 2011. Sì. Sì. Di Francesco Dominedò, autore anche di Fatti della Banda della Magliana, tutto girato al Quarticciolo. Sì, sì, tutto girato lì, ma stupendo, stupendo. Con tutte persone reali prese lì, e c'era una bella energia. E poi io so che tu c'hai una sorta di passione con i numeri anche, no? Sì, e quindi molto. Questo numero... Sì, sì, forse ti ha anche ispirato un po' la musica. È l'uomo vitruviano, è l'essere umano, è anche l'uomo nella solitudine che va verso la conoscenza, che si orienta verso la conoscenza, verso la luce, è pitagorico, è taoista, è anche legato a una certa spiritualità indiana. Infatti questo pezzo che abbiamo ascoltato, se ci fate caso, ovviamente è un primo ascolto, però ci sono molti strumenti anche orientati. Ho suonato una pipa, ho suonato uno sheng, strumenti tradizionali della musica cinese, sì. Che io ho messo nel metal, tutto nascosto tutto in questo metal. Mischiato nel metal e nell'elettronica, perché poi mi dicevi che questo, la colonna sonora di questo film è quella più elettronica. Proprio per questo, prima di arrivare al prossimo pezzo, volevo che ci raccontasse Luis quello che ha raccontato, l'aneddoto che mi ha raccontato prima di come è nata la sua passione per l'elettronica. Lui, vi ripeto, l'ho detto nell'introduzione che ho fatto, ha suonato come DJ nei più grandi club d'Europa e non solo, musica elettronica di quella proprio che ti spacca spacca proprio le orecchie, ti squarcia il cuore mentre balli alle 5 del mattino. C'era lui dietro la console, molto spesso vi sarà capitato, se siete stati in giro a ballare, di ascoltare, di sentirvi squarciati da lui. Era lui. Sì. E quanti anni avevi quando è successo tutto quanto? Calcola che io ho lasciato Napoli che avevo nemmeno 18 anni. 18 anni, ho vinto una borsa di studio al Conservatorio di Groningen grazie a questo mio maestro, che è stato un del quale veramente io devo tanto, perché lui è stato il fondatore dell'IRCAM a Parigi, vicino al Boubourg, vicino al Centro Pompidou. C'è uno dei centri di ricerca elettronica più importanti del mondo che si chiama IRCAM. Lui è stato tra i fondatori, sì. Ed era un personaggio che negli anni 50-60 costruiva robot, faceva musica elettronica. Parliamo di un pioniere che sui libri di musica, Antonio De Santis, che lo saluto, che è nell'altra dimensione, che ci starà guardando. E lui mi disse, lui parlava molto napoletano, molto stretto, molto così, era uno appassionato a casa sua. Io poi l'ho pregato in ginocchio, dico, perché poi a Napoli si dà il voi che viene al francese, sì, no? Sì, sì, sì. Io, maestro, posso venire a casa vostra? Io non do fastidio, voglio capire, perché lui aveva un laboratorio fantastico, voglio capire queste elettroniche, io sono appassionato, perché c'avevo a casa i registratori che smanettavo, sì, rallentavo, facevo, eccetera. Ero sempre stato un grande appassionato, perché da ragazzino ero catturato da Hendrix. Infatti dicevo sempre, quando sarò grande devo coniugare l'India con Hendrix. Cioè era una cosa che questa cosa di Hendrix mi prendeva. E andai a casa sua finalmente, dove lui fumava tantissimo, appassionato di pin-up, cioè aveva tutti i posti di Mary Monroe, eccetera, eccetera, grande appassionato di jazz dei primordi. Però parliamo di un matematico, di un fisico. Con lui ho iniziato a leggere dall'ebraico, era un grande conoscitore della Torah, un grande conoscitore di scritture antiche, di tutte le civiltà, insomma un matematico, un fisico, amico di Peppino Di Giugno, uno dei più grandi fisici italiani. Lui mi parlava di Majorana come noi parliamo, che ne sì, so, sì, di, sì, no, del nostro barista che ci fa, ed era fantastico. E con lui io sono stato lì, e lui mi diceva sempre: senti, io non disegno niente, perché per me le scuole si devono chiudere, per me chiudete le scuole che non servono a niente, tu se vuoi venire vieni qua, stai qua, fai quello che ti pare, fumi. Io avevo 16 anni, dico no, ma ancora no per il momento. Dice no, allora stai qua. E stavamo io, lui e il gatto, e per me sono stati anni, ragazzi, vi dico, importantissimi, formativi, perché con lui ho iniziato a fare esperimenti e ricerche sulla cibernetica applicate alle strutture musicali, all'intelligenza artificiale, alla scienza. E devo veramente tanto tanto a lui, e tutta la mia ricerca elettronica poi che è arrivata dopo, sì, parliamo degli anni 90, parliamo eccetera eccetera, è stato perché quest'uomo mi ha indirizzato. E come dicevo prima Ottavia, un giorno che avevo bisogno del mio strumento, perché per la musica elettronica, come lo chiamava lui, lo strumento era il calcolatore. Dice: ma tu ce l'hai un calcolatore? Dico sì, ce l'ho. Ma che dice: ah no, ma quello non è buono, quello è per fare i giochi. Perché ovviamente sai, immaginate che lui negli anni proprio della preistoria dell'informatica andava a Chicago, andava all'MIT, andava, perché i calcolatori quelli grandi per fare. E allora lui mi disse no no, tu ti devi fare un calcolatore, perché altrimenti come fai a fare le tue cose. Io avevo una cara prozia che non aveva avuto figli, pace all'anima sua, che mi disse: io ti devo fare un regalo, che ti posso fare? E io molto timidamente: zia, guarda, a me piacerebbe avere una Gibson, sai, la Gibson a Napoli. Poi la Gibson era la chitarra di Pinotto, era la chitarra del mitico Pino, no? Dico: zia, mi piacerebbe la chitarra, la Gibson. Dice: vabbè, pigliamo sta Gibson. Comunque 6-7 mesi di Gibson. A un certo punto chiamo un tipo a Foggia che vendeva chitarre vintage, uno dei pochi in Italia, eccetera, eccetera. Gli dico: senti, tanto mi ero patentato, oddio, da poco, dico: senti, ti posso portare la senti, vorrei vendermi la Gibson. Dice: che Gibson è? Una Birdland, una Birdland degli anni 50, vintage, eccetera. Disse: sì sì, vieni vieni vieni, vieni, non ti preoccupare, vieni, vieni, dai, vieni. Dico: ma dove sei? Chiamami quando stai, Polly. Vabbè, mi metto in macchina col mio più caro amico che mi gasava, informatico, adesso informatico in una grande multinazionale, un ingegnere. Ah sì sì, andiamo andiamo andiamo. E lui mi facemmo a metà con i soldi della benzina, con una Uno sgangherata, non abbiamo preso banco l'autostrada, abbiamo fatto la strada interna dal Vesuviano che andava in Puglia, immagina, di una strada borbonica, tipo 3 giorni. Ci abbiamo messo una giornata intera, siamo partiti alle 6, siamo arrivati la sera lì. E quando questo a un certo punto mi ha dato il cash, io mi sono visto tutti questi giorni il cash. Qualche settimana dopo io avevo il mio primo Z80. Ragazzi, lo Z80 ha fatto storia tra i calcolatori. E da lì finalmente ho iniziato a fare la mia musica. E quando io dicevo ai miei amici musicisti più grandi di me, perché fortunatamente ho vissuto in una città dove la musica si respirava ovunque, perché Napoli, sapete, ha sempre avuto una scena, quelli mi prendevano per matto, dice: no, tu sei un folle, tu sei pazzo, tu sei... E così, e da lì però devo ringraziare tutte queste peripezie che ho potuto accedere alla musica elettronica, che insomma rimane comunque un mio terreno di ricerca sempre. Che meraviglia, dai, andiamo avanti. Questa invece da un film autobiografico doloroso di Aureliano Amadei, 20 sigarette, Luis. La prima volta che ho visto questo film, grazie a Lula Sarchioni, che era all'epoca capo della EMI, mi hanno invitato a vedere questo film senza musica e ovviamente con la presa diretta già montato. Io ho pianto tutto il tempo perché era un'emozione che non riuscivo a controllare, potentissima. E devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa poter lavorare con un team di grandi professionisti. C'era Tilde Corsi, Gianni Romoli, Claudio Bonivento che l'hanno prodotto, che poi hanno prodotto film importanti in Italia, Aureliano che comunque è veramente una persona di grande spessore, grande umanità, e devo dire che è stato un film che mi ha dato grandi soddisfazioni, perché abbiamo vinto Venezia nel 2010 come migliore film. E io in quell'anno ho vinto un premio come compositore dell'anno a Venezia, è stato bellissimo, bellissimo. Devo dire che questo è un film poi che io amo molto, perché dovete sapere che un'altra mia passione è l'organo Hammond che è un organo, no? L'Hammond per me, io quando posso lo infilo un po' dappertutto, un po' marchio di fabbrica come un certo tipo di sonorità, e quindi ho molto utilizzato l'Hammond. C'è stato molto anche utilizzo di situazioni che ricordano un po' il punk nella film music, no? Facendo sempre film music, perché sappiamo bene, questa è una trasmissione dedicata alla musica da film, che la musica da film è un mestiere vero e proprio, è come un mestiere sartoriale, è un mestiere artigianale, dove devi avere comunque dei ferri del mestiere importanti, perché è diverso fare musica assoluta e fare musica per immagini. Però diciamo che io, ecco, cerco di mantenere questo taglio fatto su misura, sul film, e quindi a seconda della fotografia, dello stile, di come si muove la camera, della storia, io cerco poi di pensare a un abito. Sì. E l'abito poi è fatto di materiali. I materiali sono per me gli stili musicali, non è solo l'orchestra o solo l'elettronica o solo, ma anche proprio gli stili che cerco di uniformare poi in un discorso omogeneo, perché spesso si vedono dei film che sono delle grandi compilation dove non c'è un'idea formale, no? Sì. Allora io capisco l'esigenza dei registi, perché hanno bisogno di sonorità attuali. Allora io cerco di prendere un po' come fanno gli architetti, come fa Renzo Piano, no? Prendo dei materiali, il ferro, il vetro, oppure che ne so, nelle costruzioni polinesiane, un certo tipo di legni, di bambù, e cercare di dare una struttura emozionale al film, perché la musica è comunque qualcosa che ti deve emozionare, che ti entra dentro insieme a quelle facce, insieme alla storia, insieme agli sguardi. Quindi do spazio, diciamo, a tutto quello che è il contemporaneo che è attorno a me. Quindi io ascolto musica di tutti i tipi e amo tutti i tipi di musica. Sì, fatti. Sì. Che musica faresti per questa notizia che ti sto dando? Il governo italiano ha riconosciuto i propri torti nei confronti di 6 cittadini per quanto subito nella caserma di Bolzaneto il 21 e 22 luglio 2001 ai margini del G8 di Genova. Di fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani, l'Italia si è riconosciuta colpevole e verserà 45.000 euro a ciascuno dei 6 cittadini per danni morali e materiali e spese processuali. L'Italia ha colpe colpe anche molto gravi. Io spesso e volentieri sento dalle persone esaurite, no, in strada, persone anche amabilissime, che dico: caspita, sono arrivati tutti sti immigrati, cose, come faremo, come facciamo qua e là, eccetera. Però nessuno è andato in televisione a dirgli: lo sapete che quando l'Italia ha invaso l'Eritrea, ha violentato gente, ha ammazzato, ha fatto, eccetera, il conto prima o poi lo si paga quando si fa del male. E il male è stato fatto, tantissimo male. Poi abbiamo vissuto oltre a un ventennio, molto tempo fa, abbiamo vissuto il ventennio berlusconiano, non lo dimentichiamo, che ha massacrato la cultura, ci ha rincoglioniti totalmente. E quindi spero e mi auguro che adesso ci sia un rinnovamento. È una buona notizia, ma io non suonerei una colonna sonora di... No, di... No, però l'avevo annunciato prima, ora l'abbiamo... Di giubilo di fronte, no, a questo, perché quello che è stato perpetrato a Genova è qualcosa che non si può risarcire mai più. Non ci sono quattrini che tengano di fronte a quello che è successo. Ma è un regime, è stato un regime, nemmeno nella peggiore dittatura della Repubblica delle Banane. Cioè, si vedono delle cose in Italia che a volte uno rabbrividisce e dice: ma siamo in un paese civile? No. Siamo in un paese effettivamente evoluto? No, continuiamo con la musica, Ruiz, dai, che è meglio. proposito a proposito di A Bridge to Mama Africa, a Napoli non piove mai, dicevo un brano importante per quest'annata, giusto? Eh sì, è stato un anno formidabile. Abbiamo preso il uso l'abbiamo, perché abbiamo preso il premio da colonne sonore come migliore compositore dell'anno e il premio Manuel De Sica, al quale ci tengo tanto, che insomma dedicato a Manuel, che è stato comunque un musicista molto raffinato, bravissimo, straordinario. E nulla, ragazzi, lasciatemi ringraziare i musicisti, perché io senza i miei musicisti, insomma, per me sono la carovana, la mia famiglia con la quale insomma condivido le incursioni. Claudio Romano alla batteria, Umberto Muselli al sassofono, grandissimo musicista, Claudio conosciutissimo da tutti, Gigi De Rienzo al basso, dal famoso gruppo di Pino. Siamo un quartetto che ama queste... Il Mediterraneo si sente, no? Il Mediterraneo si sente, questa continua attingere dalla musica americana, che è normale, perché abbiamo avuto comunque, calcola che io ero ragazzino, suonavo con la big band della NATO che stava a Napoli, c'erano molti musicisti americani di passaggio all'Otto Jazz Club dove suonavo spesso, quindi c'è sempre questa contaminazione, no? Sentivi, che ti devo dire, al piano di sopra che sentiva i neomelodici e io mettevo Frank Zappa, hai capito? Quindi è tutto nel calderone. E qui su questo pezzo un liutaio di tre o quattro generazioni, no, forse qualcosa in più, nel 1500 hanno iniziato a fare mandolini, mi ha fatto un mandolino speciale Calace, che è un liutaio importantissimo, perché io ho detto, ma perché nella musica moderna il mandolino non si suona? È uno strumento meraviglioso, cioè lo suonano nel bluegrass, lo suonano nel blues, è uno strumento mediterraneo, è una voce. E allora ho scritto questo pezzo proprio per valorizzare il mandolino, che fa il tema, che è insomma la voce di questo pezzo, ecco. Avevamo detto per il raddomante o la traccia 5 o la traccia 8, lui si ha detto 8 ottavia, quindi l'8. Ma c'è pure un perché l'8 è il numero delle donne. Okay. È il numero femminile, quindi insomma un omaggio. È tutto per lei. Ecco. Questa voce di chi è, Luis? Questo è uno sciamano di Tuva, poi in questo pezzo c'è uno dei suonatori di chitarra portoghese, Gino Evangelista, che non c'è più purtroppo, che dedico questo pezzo. Ciao Gino, per me sei stato un grande da musica a Napoli, un mito della nuova compagnia di canto popolare. E poi Pericle Odierna ai fiati, un altro grandissimo musicista che suona una miriade di strumenti, e devo a lui se poi io ho iniziato a suonare tanti strumenti. Pericle è stato la mia ispirazione, lo voglio ringraziare pubblicamente dalla radio. E fai bene. Musicisti straordinari, senza di loro io non esisterei, perché è venuto prima di me, perché sulla mia strada mi ha incrociato, mi hanno regalato tante cose, io ho preso e gli mando solo benedizioni, perché la musica è uno scambio, la musica è un volersi bene, alla fine è quello. Senti Luis, purtroppo siamo arrivati alla chiusura, ti volevo chiedere dove e in quali film sarai prossimamente e se farai concerti per poterti venire a vedere. Il 18 maggio canterò da tenore insieme a Anna Tallò, grande soprano, sì. E ho fatto una colonna sonora del film di Bruno Colella che esce il 18 maggio, okay. Si chiama My Italy, una coproduzione tra Polonia, Italia, girato in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, con tanti attori, Rocco Papaleo, Luisa Ranieri, Piera degli Esposti, insomma grande. Un cast ricchissimo, Frassica, ed è la storia di quattro artisti realmente viventi di arte contemporanea che hanno scelto l'Italia come luogo dove vivere, ed è raccontata la vita pazzesca di questi quattro artisti, perché spesso si pensa che chi fa arte contemporanea è serioso, è molto cattedratico, uh-huh. Così invece sono degli scalmanati meravigliosi e io ho realizzato una colonna sonora tutta operistica, fatta di duetti, di caballette, di cose tutto molto nello stile tradizionale dell'opera. Un'altra schigge impazzita da Luis Siciliano, sì. Che è venuta fuori così, sì. Sì, sì, e tutti quanti mi hanno detto esilerante, e mi fa piacere perché arriva la positività che di questi tempi ce n'è bisogno. Sì. Ecco. Senti, hai per seguirti, hai sito internet, pagina Facebook? Sì, ho la mia pagina Facebook, www.facebook.com/Aluei, perché dovete sapere che lui siciliano è morto qualche tempo fa. C'è un nuovo adesso c'è uno che scheggia impazzita che si gira. Una scheggia impazzita che si è svegliata una mattina e ha detto a tutti: da oggi io mi chiamo Aluei. Allora ti abbracciamo, speriamo di rivederci presto sempre su queste frequenze con Tracce di Cinema. Sì, no, è sicuro Fede, sì, è sicuro. Perché abbiamo passato soltanto un millesimo. Che ci eravamo ripromessi di mandare. Intanto io vedo qua dei piatti tutto oggi, apparecchiato, grosse novità, roba proprio seria, arriva dai nostri, ci dicono di ska, Attica Blues, che ci stanno materiale ska, che stanno per venire dopo di noi. Un saluto a tutti e a tutte, soprattutto a chi è privato o privata della propria libertà personale da queste voci. Fede, ci sentiamo giovedì prossimo sempre in diretta dalle 15 alle 16, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, o in streaming dal sito internet della radio, sull'home page c'è Ascolta la diretta. La diretta di Radio Onda Rossa, sempre amore e poesia. Oggi Siciliano, fra poco i vinili di Attica Blues, io non vedo l'ora. Complimenti Luis, grazie. Grazie Ottavia, grazie. Questa Federico, la volevi come finale, è Late Night. Late Night, una musica per cinema senza immagini. Ah. Oggi partorita il cervello. Gennaio. Per oggi giovedì 6 gennaio. Per forza. Ciao. possibile.